complimenti per la trasmissione. Oh. Veramente voi portate il sole pure quando piove. Oh. Mi fai venire uno spasmo all'arteria. Pensa che modo carino che per dire le mie emozioni. Per fare una dichiarazione d'amore. Ma è vero. Quindi aglio senza l'anima praticamente. Professor Chiesa, lei ha mai fatto l'autostop o ha caricato qualche autostoppista? Dica la verità. Mi fa pensare un po' agli anni 70, l'autostop solo quando guidavano delle belle ragazze. Bravo. Eccolo là. Ho mandato un messaggio a Rudy, così sa che io non sforo. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ho una cura perfetta per una gola arrossata. Tagliarla. Alfred Hitchcock. È bravo lui, così non ci pensa più. Trac, un taglio e via. Farebbe una strage in questi giorni. Sai quante sciabolate, Nicoletta? È vero, Deborah, gli influenzologhi avevano previsto che il picco influenzale si sarebbe registrato tra gennaio e febbraio e ci hanno preso. La nostra gola è sotto assedio, si lamenta, si arrossa, si vela, prude, lancia in questo modo il suo SOS. Allora accoglietelo e chiamateci al nostro numero verde 800 24 00 24. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Franco Fussi, foniatra e otorinolaringoiatra, responsabile del centro foniatrico all'azienda USL di Ravenna. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno. Professore, basta un mal di gola a farci capire quante funzioni svolge questo organo. Se fosse un personaggio diremmo che ha diversi incarichi, perché fa parte dell'apparato respiratorio ma anche di quello digestivo. Per questo, quando va in tilt, tutto prende un altro sapore, tutto diventa più difficile, professore. E anche quello fonatorio, perché poi comunque nel nostro apparato orofaringeo sono collocati gli organi di articolazione del nostro linguaggio, quindi anche la parola e la voce ne possono subire alterazione. Quindi, professore, oggi invitiamo i nostri ascoltatori che si sentono la gola arrossata o si sentono la voce un po' sotto stress a chiamare, a dare voce al loro malessere all'800 24 00 24, ma invitiamo anche, come sempre, i nostri ascoltatori a suggerirci dei rimedi per ritornare o mantenere il benessere. Senza contare che la gola è l'unica parte del corpo che richiama un vizio, ma un vizio accettato che si lascia persino confessare. Assieme alla lussuria, la gola è il vizio più confessabile. Nessuno si vanterà pubblicamente di essere invidioso, avaro, tracotante, iracondo o negligente. Ma nessuno si vergognerà di dire che va matto per le profiterol. Cesare Marchi. Quando siamo a tavola, era il brano da cui è stato tratto appunto questo, anzi era il racconto da cui è stato tratto questo brano. Nicoletta, se oltre a chiedere ai nostri amici da casa di chiamarci per avere o regalare consigli per restituire benessere alla loro gola, chiedessimo anche se vanno matti per le profiterol, abbiamo capito che è plurale femminile nell'interpretazione di Magnifiche. Cesare Marchi, esatto, o per una scatola di cioccolatini, perché devi sapere, senti qua che notizia che ti ho trovato, che gola o non gola, il cioccolato non conosce crisi e mette tutti d'accordo. Le ultime statistiche economiche sul settore più dolce per eccellenza parlano di un giro d'affari di oltre 4 miliardi e 800 milioni di euro. Secondo l'Associazione delle Industrie del Dolce e delle Paste Italiane, in Italia i prodotti finiti di cioccolato si sono attestati sulle 305.550 tonnellate. Per il cioccolato, insomma, il segno meno è ancora un valore sconosciuto. Il segno meno è quello del quale parleremo tra un istante, perché è il segno che sta contraddistinguendo le sedute di borsa da diversi giorni a questa parte. Ieri giornata molto negativa, stamattina partenza molto brusca per la giornata in Asia. Tokyo ha chiuso con un calo del 4,18%, molto male anche le altre piazze asiatiche, ed è ancora rosso prevalente fra le borse del vecchio continente. E allora, Marco Vicinanza, direttore investimenti di Arca SGR, buongiorno intanto. Buongiorno. Buongiorno. Cerchiamo di analizzare questo rosso di borsa, però vicinanza, richiedo subito un commento intanto su questo andamento che approfondiremo più tardi nel corso della nostra trasmissione. Un primo commento, qual è il quadro che si sta manifestando in questi giorni? Un quadro di aumento, nuovo aumento dell'avversione al rischio dopo un periodo caratterizzato da andamenti di mercati molto positivi. Per metterlo in un contesto, arriviamo da un periodo di mercati in forte risalita, quindi un contesto non euforico, comunque molto positivo. Questa correzione brusca è determinata da una serie di fattori che presi singolarmente non costituiscono un problema particolarmente serio, ma tutti insieme hanno determinato. Li analizzeremo questi fattori vicinanza a partire dalle 12:10 con lei, ma oggi Marco Vicinanza ci fa anche giocare un po' con un quiz che regalerà ai nostri ascoltatori un libro della Biblioteca di Cuore e Denari. Sentiamo la domanda. Vicinanza, sente che sigletta che le abbiamo preparato per il nostro quiz di oggi, e allora vi chiediamo che cosa? Ma la domanda è facile, visto che attiene ad un concetto su cui tutti siamo stati martellati, in particolare nei mesi scorsi. La domanda è questa: cosa è lo spread e qual è stato il livello massimo raggiunto da questo indicatore? Quali ricadute può avere sulla vita economica di tutti noi? La ringrazio molto. Allora, tre domande in una. Provate a dare la vostra risposta all'800 24 00 24 oppure con un sms al 349 238 6666 o, se preferite, scriveteci su Twitter o su Facebook prima delle 12:30 e il nostro esperto darà la soluzione. Dopo il GR delle 12 sarà qui per rispondere a tutte le vostre domande e curiosità sull'andamento recente dei mercati finanziari e su come questo si ripercuote sui nostri risparmi. Quindi rispondete al quizzettone, parliamo di spread, ma parliamo anche dei nostri peccati di gola. 800 24 00 24, anche se, professor Fussi, per tornare a peccare di gola dobbiamo aspettare o fare in modo che la nostra gola stia meglio, perché tutti noi sappiamo bene che quando la gola è arrossata deglutire diventa faticoso. Beh, ovviamente se c'è uno stato infiammatorio del cavo orofaringeo, anche a livello di base lingua e di deglutizione abbiamo qualche difficoltà, sia perché le mucose sono gonfie, sia perché le stesse sono abbastanza aride, disidratate, quindi diventa il meccanismo della deglutizione diventa più difficoltoso. In questo caso è utile che ci idratiamo, che idratiamo bene le nostre mucose e che operiamo anche un'azione drenante di decongestione del cavo orale. Delle mucose faringolaringee. Servono i gargarismi come quelli che fa Giuseppina, che ci scrive da Modena. Fa dei gargarismi con il miele rosato e ci confessa che non può resistere ai cioccolatini con il liquore. Non so se fanno passare il mal di gola, ma comunque sono buonissimi. Professor Fussi. Il gargarismo può essere utile magari anche con altre sostanze più emollienti come l'aloe, come l'erisimo, come anche la rosa canina, cioè tutto ciò che ha una decongestionante per le nostre mucose. Il miele a volte può essere invece irritante per la mucosa di per sé, anche se è un elemento balsamico di interesse. Stefano da Reggio Emilia, che secondo me è il nostro fante di picche. Non mi ricordo se si chiamasse Stefano o meno. Comunque, No, Marco mi dice di no. Allora no. Non c'è ancora scritto. Comunque, che cosa scrive? Abita sempre a Reggio Emilia. Sì. La mia gola sta benissimo tra aglio ed echinacea. I raffreddori, i virus vanno a ramengo. Professor Fussi, lei è d'accordo? Beh, assolutamente sì, perché l'aglio ha anche un'azione broncodilatatoria, quindi ci fa respirare meglio. Infatti viene utilizzato molto spesso anche dagli studenti di canto, soprattutto della Corea, perché hanno un vantaggio sul controllo della respirazione. Li stendono però quelli vicino, perché ritorna. Quando poi devono fare il duetto, magari la partner non è contenta. Non è proprio felice. L'aglio ha riscosso un grande successo nel nostro programma da un paio di giorni. Sì. Vero? Ieri abbiamo parlato delle azioni anticolesterolo dell'aglio. Potete andare a risentire l'intervento del dottor Gualerzi proprio ieri a Cuore Denari. Però, professor Fussi, C'è chi ha la gola rossa, chi va giù di voce, chi si sente la gola secca, chi avverte quella sensazione di corpo estraneo. Sono tanti modi in cui la gola racconta, diciamo così, il suo malessere. Lo fa in modo diverso a seconda della zona in cui è colpita. Professor Fussi, a volte, come si dice, basta la parola per localizzare l'origine del problema. Se i nostri amici da casa ci chiamano e parlano con lei, lei può capire come sta la loro gola e anche, mi permetto di allargarmi un po', ma lei è un grande esperto, di dare anche una sorta di inquadramento dello stato di salute delle loro corde vocali? Noi mettiamo il nostro numero verde a disposizione. Lei di quale altra cosa ha bisogno, professor Fussi, per darci una mano? No, basta soltanto ascoltare la voce, perché poi comunque i segnali acustici, per chi è allenato, sono abbastanza patognomonici, o almeno spesso lo sono, di alcuni stati patologici che possono essere a carico della faringe, come anche invece della laringe o delle corde vocali. Quindi parlate. Allora sono molto curiosa di sapere che cosa pensa il professor Fussi della tua gola, che non solo è rossa, professor Fussi, ma è viola in questi giorni, ma Nicoletta, molto affezionata a questo microfono, giustamente non mi molla. Magari la sta mettendo un po' più sotto stress perché cerca di fare in modo che sembri assolutamente normale, ma a microfoni spenti non lo è. Lei se n'era accorto? Il timbro di voce in questo caso risulta un pelino più scuro, no? Un pochino più grosso, diciamo, e questo è abbastanza naturale quando c'è uno stato infiammatorio delle mucose, perché la mucosa più gonfia crea una risposta dal punto di vista del timbro di scurimento, quindi la voce è un po' più pesante, un po' più rigida, anche se, a dir la verità, all'ascolto non notavo tutto questo in Nicoletta. Vedi, perché vuole bene, esatto, il professor Fussi. Noi cerchiamo di mettere, come dire, al riparo i nostri ascoltatori dalle nostre problematiche di salute, certo, quando ce ne portiamo qua. Certo. 800 24 00 24. Professor Fussi, parliamo di laringite, faringite, raucedine, sono tutti modi con cui noi descriviamo di avere un problema alla gola, ma la localizzazione del disturbo è diversa, non a caso i nomi, certo, cambiano. È quel suffisso in ite, laringite, faringite, che ci fa capire che qualche cosa è infiammato. Esatto, infatti è soltanto un suffisso che indica uno stato flogistico, quindi un'infiammazione che può essere a carico della faringe, quindi più alta, e allora in questo caso i sintomi saranno soprattutto di bruciore, di difficoltà deglutitorie, oppure anche di stomatolalia, cioè il parlare un po' impastato, un po' come avere una patata in bocca, no? Questo articolare in maniera forse un po' imprecisa, un po' impastata. E anche le parestesie faringee, cioè il palato che brucia, la base della lingua che brucia, quindi l'atto deglutitorio è doloroso. Se invece l'infiammazione è più bassa a livello laringeo, allora abbiamo probabilmente una compromissione anche della mucosa delle corde vocali, quindi una disfonia, cioè un'alterazione della qualità della voce. Se poi c'è invece una flogosi, un'infiammazione più alta a livello rinofaringeo, in questo caso avremo le fosse nasali gonfie con produzione di muco e di catarro, e quindi la loro funzione di risuonatore verrà un po' a mancare. Allora gli unici fonemi nasali della nostra lingua, che sono ma e na, non potranno essere formate perché appunto le fosse nasali sono occupate e gonfie, e in questo caso verranno trasformate in b e d. Infatti è tipico del bambino con la raffreddore, certo, con l'adenoidi, quando deve dire, non so, la mamma va dalla nonna, dice la babba va dalla dodda. Per cui la M e la N diventano B e D, proprio perché non c'è la funzione nasale di risonanza. E oggi parleremo anche di voci nasali, il raffreddore quando arriva. Fa sentire, non solo con gli starnuti. 800 24 00 24, se l'influenza è venuta a trovarvi a casa e quindi ha messo a KO il vostro naso e la vostra gola. E generalmente, esatto, non bussa alla porta, ma si fa sentire magari con altri sintomi. Professor Fussi, una ascoltatrice, Bruna, da Cuneo, ci scrive intanto: che tempismo, ho avuto il mal di gola da un mese, è passato, ma rimane quel fastidiosissimo muco nonostante il fluidificatore, dico bene? SOS, che cosa devo fare? Ce la trasciniamo così a lungo? No, bisognerebbe idratare maggiormente le mucose, quindi usare per esempio aerosol a base di acido ialuronico per sciogliere ulteriormente i residui di muco e idratare meglio la superficie delle corde vocali e di tutte le mucose. Mi spiega come si può fare l'aerosol a base di acido ialuronico? Esistono dei prodotti specifici in commercio a base appunto di acido ialuronico che viene diluito con una soluzione fisiologica e in fiale proprio per permettere l'assunzione per via aerosolica, oltre ad essere presente anche ad esempio in spray orale. Ci sono degli spray orali per la secchezza delle fauci. E fanno passare anche un po' le rughe questo aerosol. Esatto. Perché lei ride? No, rido perché sono molto contenti le pazienti quando prescriviamo l'acido ialuronico. Vero? Eccolo qua. Intanto noi abbiamo invitato i nostri ascoltatori a raccontarci anche il loro peccato di gola. Ci stanno arrivando molti messaggi al 349-238-6666. Alcuni sono più peccati di gola più scontati, il cioccolato, la panna montata. E uno strano messaggio è arrivato da un ascoltatore che non si è fermato e scrive: il mio peccato di gola, immagino, è mettere il latte concentrato zuccherato nel congelatore dopo 3 giorni, quando è bello duro, tipo ghiacciolo, dopo 3 giorni mangiarlo tutto in un momento. Sembra un gelato, sì. Viene fuori, non lo so, che ricetta strana. Vabbè. 800 24 00 24, se volete raccontarci i vostri peccati di gola, che a volte in questo caso, come ci insegna il nostro ascoltatore, alleviano forse la gola, uno che in quel momento può avere una condizione di malessere. Professor Fussi, quando la gola brucia viene, no, la sensazione di mettergli qualche cosa di fresco, quasi a disinfiammarla, è istintiva. Sì, è istintiva, a volte usiamo spesso compresse a base di menta o di mentolo perché appunto ci dà questa sensazione di freschezza, che però poi in realtà è controproducente perché ci crea ancora più secchezza e poi per chi soffre in particolare di reflusso gastrico la menta non è proprio indicata. Ne parleremo, perché il reflusso gastroesofageo mette in difficoltà la nostra voce e infatti è un problema anche per i cantanti, di cui il professor Fussi conosce bene la situazione delle corde vocali. Ne parleremo. Intanto voglio andare a salutare Ubaldo che ci chiama da Torino e poi abbiamo subito Lorenzo che invece ci chiama da Firenze. Ubaldo, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qui. Allora, niente, il problema non ce l'ho io, ce l'ha mia moglie. Ho approfittato del momento per chiedere al professore. A mia moglie vengono spesso e volentieri, adesso in quest'ultimo periodo, come delle bollicine trasparenti in gola, che poi si rompono, poi magari dopo 2 o 3 giorni ricompaiono e niente, non sappiamo bene dove fare, dove andare. Queste bollicine trasparenti le procurano dolore? Sì. O sono solo brutte da vedere? No, sono fastidiose. Fastidiose. Poi gonfiano e poi si spaccano e soprattutto poi nel momento di mangiare. Ecco, prima di mangiare vengono fuori queste cose. Queste strane bolle, professor Fussi, lei le conosce queste strane bollicine? Sì, dovrebbero essere delle forme di stomatite aftosa che richiederebbero comunque un tampone faringeo e poi comunque dei colluttori a base di iodio e anche di acido ialuronico per idratare comunque le mucose. Un tampone faringeo, ecco, vogliamo raccontare che cosa serve a chi è indicato? Serve per individuare elementi patogeni, quindi batterici, per tipo streptococchi o stafilococchi, per individuare la causa di eventuali forme infiammatorie della orofaringe, quindi le classiche faringite, e per poter poi scegliere un antibiotico mirato per sconfiggerli. Non è doloroso? No, assolutamente. Lo possono fare anche i bambini? Certo. E io finalmente è arrivato, il fante di picche, si chiama Marco, non Stefano. Cosa scrive? Il mio peccato di gola, formaggi tutti. E più puzzano più mi piacciono, magari... per non parlare poi delle croste, del parmareggio o del grana, magari con la mermellatina sopra, no? Lorenzo, eccoci. Buongiorno da Firenze. Buongiorno a tutti. Buongiorno professor Fussi, complimenti per la trasmissione, molto interessante. Eccolo là, grazie, ci dica. Senta, io vi chiamo perché vi sento anche quando sono all'estero durante i miei viaggi con internet, la vostra trasmissione è molto interessante. Volevo approfittare adesso del professor Fussi per la consulenza sulla mia voce, perché io sono delicato di gola e spesso mi si gonfia la gola, insomma, ho qualche problemino. E quindi vorrei sapere, allora, professor, sono raccolto in fragrante. Professor Fusti, Lorenzo, essendo fiorentino, la dizione è perfetta, quindi già lì guadagna. Okay. Per quanto riguarda invece la voce, lui dice sono un po' delicato. Sì, anche perché sente che ha una voce che, anzi gli chiedo se è una voce che si affatica facilmente, che sta fatica a protrarre la fonazione per tanto tempo, perché sento nella sua voce una detimbratura, cioè è una voce abbastanza legnosa, cioè povera di armonici, che lo costringe a aumentare la pressione di aria, quindi a spingere, diciamo, un po', la sua laringe si alza, infatti la sua frequenza fondamentale, cioè la nota media su cui parla, è abbastanza acuta. È una voce che tendenzialmente parla con questa modalità, dove la voce è un po' vuota ed è un po' alta anche di tonalità. Probabilmente questo deriva da una patologia congenita, cioè da un'anomalia congenita delle sue corde vocali, si chiamano in genere sulcus o vergetur, sono come delle pliche, delle zone aderenziali che impediscono all'onda mucosa, cioè alla corda, di vibrare in maniera completa, quindi si formano meno armonici nel suono, la voce per questo diventa un po' più debole, un po' più faticosa e quindi lo impegna molto e la rende anche più sensibile alle aggressioni esterne, per cui anche è utile per lui, a parte una rieducazione logopedica, fare anche una serie di procedure di rinforzo immunitario. Perché quando noi stressiamo la nostra voce, usiamo male la voce, professor Fusti, ho capito bene, la esponiamo, la facciamo diventare più fragile e quindi possiamo avere nel tempo più problemi, per cui rieducare la voce può essere un investimento per mantenere sano anche tutto l'apparato fonatorio. Certo, perché gli stress non sono soltanto legati a infiammazioni, ma sono anche legati invece a problemi traumatici del come le gestiamo, del come ci comportiamo con le nostre corde vocali. Cuore e denari. Il blu è un rosso relativo, senza macchia d'amore, ma adesso canterà dentro di te. Per la gran solitudine. Il rosso di Tiziano Ferro è relativo, ma quello dei mercati non si può discutere, i numeri sono numeri e anche oggi il rosso è abbastanza marcato tra le borse del vecchio continente. Di tutto questo torneremo a parlare con un esperto dopo il GR delle 12. Intanto voi continuate a chiamarci, a scriverci per rispondere al domandone di denari al quale avete già in tanti dato risposta. Cos'è lo spread? Qual è stato il valore massimo raggiunto da questo parametro negli ultimi 2 anni e quali ricadute può avere un suo innalzamento sulla vita economica di tutti noi? E se ad essere rossa invece è la vostra gola, mandateci un SOS, il professor Fusti è a nostra disposizione, ci sono tanti rimedi naturali che possono spegnere gli incendi, ma chiamateci anche se è la vostra voce a sventolare bandiera bianca, perché a volte dopo un violento mal di gola la nostra voce rimane, professore, un po' segnata, bassa, roca, spenta, velata. Se, professor Fusti, lei è pronto, le chiederei subito un consiglio per chi si ritrova in questa situazione. E poi a ruota un consiglio di prevenzione. Ma come rimedi naturali possiamo utilizzare varie sostanze come l'echinacea, il propoli, che è anche un antibatterico, l'erisimo in specifico per problemi legati a infiammazioni che creino problemi di voce, e da prendere soltanto quando c'è uno stato infiammatorio, perché molto spesso l'erisimo viene abusato per esempio dai cantanti come attività preventiva, mentre invece ha soltanto un'attività curativa, ecco, potrebbe essere anche controproducente prenderlo quando si sta bene. L'aloe... È vero, perché irrigidisce un po' le corde, sì, vocali? Esatto, esattamente. Sa che lei me l'aveva raccontato in una puntata precedente, io ho fatto un'ottima figura qua in redazione perché un collega lo stava prendendo e io ho fatto un po', no, attenzione, ho fatto un po', ho guadagnato dei punti. La professorina però insomma sì, ci vuole là. Però gli ho salvato le corde, come esatto, si dice. Poi c'è il succo concentrato di aloe che è anche ottimo anche per prevenire il reflusso, e la vitamina E che idrata le nostre mucose, la rosa canina che è un antinfiammatorio. Possiamo utilizzare anche degli immunostimolanti per rinforzare le nostre difese come la lattoferrina e il resveratrolo, quindi non soltanto i vaccini, i comuni lisati batterici che appunto aumentano la risposta anticorpale, ma anche proprio per rinforzare il nostro sistema immunitario. E poi ci sono tutta una serie di rimedi omeopatici a cui possiamo far ricorso, l'arum trifilum che è un rinforzante per le nostre corde vocali, l'arnica che invece ha un'azione antinfiammatoria e antitraumatica, quindi antistress nel lavoro vocale, soprattutto in chi utilizza molto la voce e le corde vocali, il fosforo per le forme infiammatorie della trachea, quando c'è la tosse possiamo usare il cuprum metallicum, quando abbiamo la febbre possiamo usare anche l'aconitum, un'azione antiedemigena c'è l'apis mellifica, che quindi ci aiuta a sgonfiare le nostre corde vocali, se c'è un aspetto infiammatorio delle tonsille, un'ipertrofia, un'iperemia della tonsilla, possiamo usare il mercurius solubilis, come invece per tutte le altre forme legate a infiammazione della faringe. Quindi erboristeria per curarci la gola, non più medici? In parte fitoterapia e in parte anche omeopatia, fino a che è possibile, quando ovviamente non dobbiamo ricorrere eventualmente anche a invece medicinali allopatici, certo, e quindi fino anche al cortisonico. Il professor Fusti è un medico e ci consiglia giustamente anche rimedi naturali, rimedi omeopatici e altre scelte oltre ai farmaci. Francesco ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci Francesco, vero che ha tirato subito sulla voce perché ha capito che il professor Fusti è all'ascolto, vogliamo tutti fare un'ottima figura. Francesco. Buongiorno professore, le volevo chiedere, io ho soltanto d'inverno, quando arriva la brutta stagione, problemi alla mia voce, nel senso che ecco, ho sempre bisogno di fare questo tipo di operazione per schiarirmi la voce, perché la parte sinistra praticamente sento che respira di più, però ho questo bisogno. Quando sono andato a fare una visita otorrinolaringoiatrica, mi dissero che avevo problemi di reflusso esofageo. Mm-hmm. Volevo chiederle, questo benedetto reflusso esofageo può creare problemi alla gola, alla laringe? Grazie Francesco che ha colto il nostro input. Abbiamo parlato del reflusso esofageo e della voce di professionisti, dei cantanti. C'è una relazione, ma professor Fusti. È proprio vero che i sintomi del reflusso si manifestano maggiormente nei cambi di stagione, quindi appunto nell'autunno, all'inizio dell'inverno ed eventualmente in primavera. E il sintomo del raclage, lo schiarire della voce, noi lo chiamiamo tecnicamente raclage, il raschiare appunto la gola, dipende proprio dalla disidratazione del muco che lubrifica le nostre mucose a causa degli acidi, dei vapori di acido cloridrico che arrivano appunto dallo stomaco. E questa disidratazione provoca una maggiore densità della mucosa che rimane adesa sulla superficie delle corde vocali e ci dà la sintomatologia della necessità di dover rimuovere dalla superficie della corda vocale questo muco appiccicoso, ed è uno dei sintomi tipici del reflusso gastroesofageo. In questo caso bisognerebbe curare bene l'alimentazione, fare la terapia antireflusso con gli inibitori di pompa protonica e degli antiacidi prima di coricare, in maniera tale appunto da evitare che la componente acida del reflusso causi poi tutte queste problematiche che non sono solo digestive, infatti si chiama reflusso faringo-laringeo e ci causa problematiche appunto, dicevo, non digestive ma soprattutto vocali e anche legate alla deglutizione, quel senso di avere un po' una collosità posteriore che ci impedisce quasi o ci rende un po' più faticoso il deglutire, come se dovessimo forzare un attimo il meccanismo della deglutizione per mandare giù. Sono appunto tutte sintomatologie correlate al reflusso. In questo caso curare l'alimentazione vuol dire evitare cibi che producano o aumentino il grado di acidità dei nostri succhi gastrici, quindi tutti i cibi acidi, pomodoro, cioccolato, caffè, bevande gassate, agrumi, la menta, non coricarsi subito dopo il pasto, quindi cercare di cenare prima, comunque di non andare a letto subito, di non sdraiarsi subito davanti al TV e poi evitare fritti, evitare carni grasse, avere un'alimentazione insomma più equilibrata in questo senso, unitamente alla terapia che comunque va fatta soprattutto nei cambi di stagione. Sincerità, adesso è tutto così semplice, che sei l'unico complice di questa storia magica. La canzone di Arisa per raccontare ai nostri ascoltatori che il professor Fussi, come dire, si prende cura della voce di personaggi molto noti, delle voci appunto di grandi artisti, e molti di questi saranno a Sanremo, senza naturalmente compromettere il valore, professor Fussi, del segreto professionale, però di qualcuno ci può raccontare di quali voci e gole famose si prende cura? Ma di questi che vanno a Sanremo in questo momento? Anche sì. Anno, non solo. Sono molto amico di Giuse Ferreri e di Arisa, ad esempio, e di Francesco Sarcina, che sono quest'anno a Sanremo e che curano la loro voce come tutti i cantanti, anche semplicemente per un controllo, per vedere se sono in buona salute. Giustamente, è il loro biglietto da visita, esatto. Direi che è il caso, appunto, come forse dovremmo fare un po' di più anche io e te, cara Nicoletta. C'è un ascoltatore, posso leggere questo ultimo messaggio che scrive? Date qualche consiglio a proposito di non artisti, perché Giovanni Minori è un grande giornalista che dà sempre dei colpetti di tosse in trasmissione. Io dico a Luca, ma siate un po' più tolleranti con noi, siamo per ore e ore davanti a questo microfono e anche per noi qualche volta non è facile, no? Perché viene anche a noi di schiarirci e dobbiamo, come dire, dare indicazione al tecnico di abbassare per un attimo il microfono. Quindi Luca sa, se siamo in diretta con degli ospiti, gestire queste situazioni qualche volta è un po' complicato, no Nico? Sì, anche perché il colpetto di tosse a volte tradisce anche un po' di imbarazzo, di ansia, non è il caso sicuramente di Minoli, ma professor Fussi, c'è anche il cotè psico della voce. C'è l'ansia da prestare. E quindi c'è questa manovra scaramantica di pulire un attimo le corde prima di iniziare a parlare, proprio per avere una maggiore garanzia di tenuta e che non ci siano appunto incidenti vocali di percorso. Diventa anche una forma di legata proprio all'ansia da prestazione, quindi quella sana allerta, diciamo, del performer che sta iniziando la sua produzione vocale. Allora, unitamente magari anche a problemi che possono essere invece legati all'ambiente, alla secchezza dell'ambiente, quindi se c'è un ambiente secco, surriscaldato, polveroso, sicuramente le nostre mucose sono più essiccate, quindi in questo caso idratarsi bene, che può voler dire non tanto bere molta acqua prima della prestazione, quanto invece idratare le corde, ad esempio tramite l'ausilio di un fazzoletto bagnato tenuto sotto il naso una decina di minuti prima, in maniera tale da far sì che le goccioline di acqua vengano trasportate direttamente sull'epitelio della corda e quindi le idratino. Questo è un trucchetto straordinario che possono utilizzare non solo i cantanti ma anche noi che non cantiamo, ma che devono magari affrontare una relazione, un incontro, una tavola rotonda. Funziona benissimo, o magari il grande palcoscenico di Sanremo, che fa discutere non tanto per le qualità vocali dei cantanti che parteciperanno ovviamente, ma più che altro sugli ingaggi milionari. Siccome io sono donna di denari e non posso far finta di niente, di tutto questo parliamo dopo aver sentito cosa sta succedendo sulle strade italiane. Cuore e denari. Ecco, parlavamo della questione di Sanremo, di tutti i cantanti che vanno, molti dei quali seguiti dal nostro professor Fussi, ma a Sanremo tutti gli anni, alla sempre la solita polemica, si discute sugli ingaggi milionari. E dicevo prima... Faccio subito l'intercalare perché l'argomento è un pochino imbarazzante. Molti italiani brontolano perché sanno che tutti i soldi che si pagano per questi ospiti anche internazionali che arrivano sul palco dell'Ariston, sanno appunto che quei soldi arrivano anche dal loro canone. E a proposito, lo ricordiamo per chi non lo avesse pagato, attenzione alla mora. La cifra che va sborsata la conoscete, sono circa 113 euro. Sono rimasta molto colpita dal fatto che una persona qualche giorno fa a me vicina mi ha raccontato che per un giorno di ritardo ha pagato una mora di 4,50 euro e quindi in pratica ha pagato da 113 quasi 119 euro, qualcosa del genere, quindi non lo so, mi sembra un po' esagerata come mora. E più aspetti esatto, più sali. Allora adesso va bene tutto, però voglio dire, mamma Rai, mi sembrano un po' esagerate queste sanzioni, mettiamoci una mano sulla coscienza. La TV piace a tutti, la guardiamo tutti, però... Allora, sentiamo intanto i nostri ascoltatori. Abbiamo Francesco da Bari e Greta da Roma. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Una domanda al professor Fussi. Io sono un farmacista e ho trovato un ottimo rimedio con una soluzione di argento colloidale spruzzata praticamente in fase acuta, E volevo sapere appunto se il professore ha esperienza in questo senso e soprattutto perché parlando di denari costa abbastanza ridotto. Ah, bravo, quanto costa? Guardi, io me lo preparo pochi centesimi. È un ottimo, e soprattutto è un antivirale. Quindi volevo sapere della tossicità, in letteratura si trova pochissimo, diciamo come tossicità viene considerata molto bassa. Però volevo sapere, certo. Volevo sapere l'esperienza. Professor Fussi, per Ugo Ledoro, argento colloidale? Sì, è un vecchissimo rimedio, validissimo tuttora. Esiste anche, tra l'altro, un prodotto in gocce nasali a base di argento colloidale, che il farmacista ricorderà sicuramente come nome commerciale, che ovviamente non facciamo, che proprio per le riniti, ed è sicuramente un ottimo antisettico antivirale, quindi nei casi sia di rinofaringiti o anche proprio di faringiti acute è un ottimo rimedio. È un galenico, vero? È un galenico, sì. Ah, Greta da Roma, buongiorno. Che parole difficili buongiorno. Che mi usi questa mattina. Per voglio far bella figura con il professor Fussi. Che figurone. In pratica lo prepara il farmacista. Esatto, e infatti Francesco da Bari è un farmacista. Infatti. Se lo fa e se lo prepara, esatto. E se lo usa. Se conta quanto spende, che non mi pare male. Ecco, quindi ci faccia arrivare un po' di preparato all'argento colloidale. Noi lo distribuiamo un po' a Radio 24. Greta, buongiorno da Roma. Buongiorno, parliamo sempre di ansia da prestazione, come diceva prima il professore, perché io oramai vivo nell'ansia perenne da qualche anno, perché improvvisamente si scatena una tosse che parte da una specie di solletichino in gola a livello della trachea. Sì. Ma da una stupidata comincio a tossire che sembra che sto morendo e ho fatto diverse indagini, sì, tra cui anche la gastroscopia, e mi hanno detto sì che c'è un po' di reflusso, però non è abbastanza importante da causare una tosse di questo tipo. Adesso sto per incominciare a fare un pochino di esami allergologici e non riesco a capire. Non ha pensato Greta di fare un po' di meditazione? Forse, dice. No, è una strada che viene suggerita da più esperti per calmare lo stress, l'ansia, un buon allenamento, a essere benessere. Ne abbiamo parlato tante volte di meditazione, adesso è su tutti i giornali, si suggerisce anche la meditazione a scuola e non solo nel posto del lavoro, ma professor Fussi, che è venuto a raccontarlo in Italia. David Lynch. Esatto. Professor Fussi, a parte meditare, ma... No, dicevo, a volte come dopo flogosi acute particolarmente violente possono residuare delle spine irritative a livello di infiammatorie, a livello di porzioni localizzate della mucosa, spesso della trachea, e quindi questo rendere più sensibile all'albero laringotracheale a qualsiasi irritazione, qualsiasi elemento che può essere un ambiente fumoso, un solvente, un profumo anche, e sollecitare appunto una tosse stizzosa e improvvisa, a volte anche semplicemente la fonazione mentre si sta parlando, e qui si tratta di individuare appunto qual è l'area infiammata e quindi eventualmente dei rimedi per idratare, sicuramente per idratarla, per renderla appunto meno sensibile, escludendo che la causa possa essere invece in relazione al reflusso o a stati allergici appunto. Quindi a Greta da Roma la sua indicazione è: iniziamo con una buona idratazione. Con lo ialuronico, sì, esatto. Madalina, il catalogo è questo, delle belle chiamò il padron mio, un catalogo che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate. Dalla voce dalla gola dei grandi passiamo a quella dei piccoli. Professor Fussi, il mal di gola è un problema comune tra i bambini. Si inizia con un raffreddore, poi arriva il mal di gola, la tosse, poi spesso questa situazione sfocia in un bel mal d'orecchio. Allora, sono veramente dolori, lo sappiamo, per i bambini, anche i genitori vanno in panico. Solitamente il mal d'orecchio arriva di notte, un grande dolore, grande pianto, non si sa più come coccolare il bambino. Però, professor Fussi, tante volte proprio questi problemi, no? Si passano, si continuano, non finiscono mai, proprio perché sono mal curati dall'inizio, sì, si dice così. quando ci sono delle forme infiammatorie che vadano a bloccare la tuba e quindi poi il muco rimane, il catarro rimane all'interno dell'orecchio e si scatena poi la reazione infiammatoria della membrana, quindi un'otite. Questo soprattutto quando il bambino poi ha comunque una fossa nasale occupata, impegnata magari dalla presenza delle adenoidi o da un'ipertrofia dei turbinati, a volte anche per deviazione del setto nasale, cioè tutto quello che occupa, che crea ristagno nella secrezione che si forma durante uno stato infiammatorio può creare poi un'infezione che si propaga all'orecchio creando l'otite. Essere e benessere. Monsieur, il vostro naso è alquanto grande. Alquanto? Oh, visto? È tutto qui. Beh, naturalmente. No, giovin signore, voi mi deludete. Avreste potuto dire ben altre cose. Perché sprecare questa opportunità? Per esempio questo. Come fate a bere con quel naso? Scommetto che avete un boccale su misura. Descrittivo. Ma è una rotta, un'erta, un capo. Un capo? Diciamo piuttosto che una penisola. Di sicuro lo era per Cyrano de Bergerac, ma anche per i bambini soffiarsi il naso è una seccatura e per i genitori a volte non è facile insegnare ai bambini a soffiarsi bene il naso, forse perché a loro volta non l'hanno imparato da piccoli. Comunque non è mai troppo tardi e in linea con noi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Lucia Lazzarini, logopedista. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Debole e a tutti voi. Buongiorno. Dottoressa Lazzarini, siamo pronti. Abbiamo capito dal professor Fussi che è importante soffiarsi il naso. Questo è già un gesto di prevenzione. Allora, noi abbiamo tutto l'occorrente. Un naso, un fazzoletto, meglio di carta o di tessuto? Beh, innanzitutto io volevo ricordare che tenere comunque le cavità nasali libere da impurità è importante non solo per i bambini, per i più piccoli, ma anche per gli adulti, perché comunque in questo modo permettiamo al naso di svolgere le sue più importanti funzioni, che sono sicuramente filtrare l'aria dalle impurità e poi anche appunto proteggere l'organismo da virus e batteri intrappolandoli poi nel muco. E al contrario invece il ristagno di muco chiaramente non fa che facilitare le infezioni, impedendo quindi in questo modo al naso comunque di svolgere le sue funzioni protettive. E per rispondere alla domanda, il modo migliore per liberare il naso è soffiarlo ad intermittenza, una narice per volta, ed è preferibile utilizzare un fazzoletto in tessuto perché permette comunque una maggiore traspirazione. Allora, ci sono anche degli esercizi che la dottoressa Lazzarini ci può suggerire, lo farà dopo il GR, per aiutare e convincere un bambino che di soffiarsi il naso proprio non ne vuole sapere. Si può convincerlo giocando. Ne parliamo dopo il GR perché è tempo di dare la parola alle notizie. 800 24 00 24, se volete restare con noi, chiamateci. Prenditi un momento di piacere ambrato e sensuale, assoluto e singolare. Un momento Segnana. Segnana Solera di Solera. Inaspettatamente, grappa. I tuoi denti si muovono, sono sensibili al caldo e al freddo. Le tue gengive sono infiammate, si sono abbassate, soffri di alitosi. Potresti avere la parodontite e perdere i tuoi denti. Ma un'alternativa c'è. Dalla ricerca di Excellence Dental Network, una cura non invasiva con il microscopio e il laser. Prenota una visita nella clinica odontoiatrica più vicina a te all'800 090 106 o su parodontite.it. Salva i tuoi denti, evita gli impianti. 800 090 106. Media e piccola nautica, sport e accessoristica. Nei primi due weekend di aprile, il Salone Nautico di Venezia è il riferimento per gli operatori e gli amanti del mare. È un evento Expo Venice e Padova Fiere. Info su salonenauticodivenezia.com. Vuoi carburante a prezzi bassi ad ogni ora? Scopri Costantin, carburante di qualità e servizio sempre incluso nel prezzo. E con il nuovo concorso, da Costantin vinci ogni settimana una meravigliosa crociera per due persone. Regolamento su costantin.com. Unbelievable! Compra il Sole 24 Ore e impari l'inglese con il corso BBC English Go. Quotidiano con CD o DVD sempre incluso nel prezzo di 1,50€. BBC English Go. Facile, economico, autorevole. Giovedì, il secondo DVD sempre incluso nel prezzo con il Sole 24 Ore. Imperdibile! Lo sapevi che 5 adolescenti su 4 scambiano il pavimento del bagno per il cesto della biancheria sporca? Riporta ordine nel tuo bagno con God Morgan. Fino al 31 marzo per i soci che ha Family Care Business, 20% in buon acquisto spendendo almeno 250 euro in mobili per il bagno. Info su ikea.it. Non volare all'est per i tuoi denti low cost. Oggi l'odontoiatria italiana vince per qualità e prezzo. Amicodentista.com ti propone denti fissi in 24 ore a un prezzo mai visto. Per info numero verde 800 088 315. Amicodentista.com. La realtà ha tante versioni. C'è una versione coraggiosa, una versione razionale, una versione ironica, ma soprattutto c'è la versione di Oscar. È la realtà. La realtà la si può guardare con tanti occhi, la si può guardare con uno sguardo coraggioso, con invece un approccio totalmente scorato, la si può guardare in una maniera razionale, con una versione invece ironica, con una satirica, sardonica, ma insomma ci sono tante versioni, ma c'è anche la mia. La versione di Oscar, dal lunedì al venerdì alle 16.30 su Radio 24 e in podcast su radio24.it. E denari. Eccoci ritrovati in diretta con Cuore e Denari, ancora buongiorno da Deborah Rosciani e da Nicoletta Carbone. Il tema dominante di questa puntata è il rosso della gola che si infiamma ed è naturalmente il più importante malanno di stagione di questo periodo, ma anche di rosso di borsa internazionale. I mercati sono in rosso da qualche giorno, ieri è stato anche piuttosto profondo, lo è stato questa mattina particolarmente sui mercati asiatici. Cercheremo di capire tutto questo tra un attimo con i nostri ospiti. Salva Danaio. La mia fidanzata milanese non è donna di pretese, pensa sempre al cia cia cia. Non le importa niente dei milioni, vuole solo buone azioni della borsa di Milano. Breda, Eridania, Iri, Mediobanca. Titoli che non esistono più in borsa italiana da moltissimo tempo, non so neanche se siano mai esistiti, io non me lo ricordo. In ogni caso parliamo di mercati, come avrete capito, perché sono giornate di nuovo piuttosto difficili. In realtà il bilancio è negativo per gran parte delle piazze finanziarie dall'inizio dell'anno, ma c'è da dire che arriviamo da un 2013 che è stato invece buono. Nonostante invece l'economia reale indichi ben altro, perché il prodotto interno lordo di molti paesi è ancora in difficoltà, ma insomma la crescita, qualche economia ci sta tornando, non è così per Milano. Questo è un po' il tema che affrontiamo tra un attimo con il nostro ospite. Nicoletta, è così? Sì, in questa parte di Cuore cercheremo di approfondire cosa sta succedendo, che impatto sta provocando questa situazione sui nostri risparmi e cosa dobbiamo aspettarci per questo 2014, perché se il buongiorno si vede dal mattino dobbiamo aspettarci un anno complesso, cara Deborah. Allora, se queste sono anche le vostre domande, chiamateci 800 24 00 24 e discutiamone insieme. Per avere una chiave di lettura sui movimenti dei mercati finanziari recenti, con noi Marco Vicinanza, responsabile direzione investimenti di Arca SGR, benvenuto. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Un'oretta fa l'abbiamo sentito al telefono, abbiamo lanciato il quizzone per i nostri ascoltatori. Ripetiamo la domanda, Vicinanza, e così poi sentiamo anche le risposte che ci sono pervenute nel frattempo. Sì, la domanda in realtà è tre domande in uno. Cos'è lo spread? Qual è stato il livello massimo raggiunto dall'indicatore e qual è l'impatto che questa grandezza ha sulla nostra vita di tutti i giorni? Avrebbe mai immaginato di venire in radio a fare una cosa del genere, il Mike buongiorno della situazione? Però c'è sempre una prima volta per tutto. Non certo. Si è neanche schiarito la voce, quindi no, esatto. Era assolutamente a suo agio. Però in realtà ha detto che qualche pizzicottino lo sente, quindi magari poi gli faremo anche una piccola consulenza con i nostri ospiti. Allora, abbiamo le risposte all'800 24 0024. Il primo ad aver chiamato, che si guadagna, credo, presumibilmente, il libro della libreria di Cuore e Denari, è Filippo da Catania. Filippo, buongiorno. Sì, salve. Eccoci, a lei. Ci dica. Sì, diciamo che lo spread è il differenziale tra il bond tedesco e il nostro decennale. E questa è una parte della risposta. Si ricorda il livello massimo a cui è arrivato qualche tempo fa? 500 punti base... ai tempi prima del governo Monti. Allora, era anche un po' di più, ma vediamo se sì, è un po' più preciso. Più era, sì. Grazie. Comunque grazie, Filippo. Vediamo se Massimiliano riesce ad essere un po' più preciso. Massimiliano, buongiorno. Buongiorno. Allora, ci dica. Allora, vabbè, per quanto concerne la prima risposta, ha detto giusto il signor Filippo, cioè che è il differenziale tra i bond tedeschi e i nostri BTP italiani, insomma i nostri buoni del tesoro. Mm-hmm. Per quanto concerne il livello massimo, se non vado errato, dovrebbe essere 519-520 punti base. Allora, vicinanza, in realtà fu anche un po' più alta la chiusura di quel 9 novembre del 2011. Diciamo fuochino, in realtà la chiusura di giornata del giorno peggiore fu oltre i 550 mm-hmm. punti base, con dei livelli all'interno della giornata anche dalle parti di 570. 575 fu, se non mi ricordo male, il top che si toccò e che in quei giorni provocò anche la traumatica crisi di governo che portò appunto a Palazzo Chigi Mario Monti. Detto questo, grazie ai nostri ascoltatori, apriremo naturalmente le nostre librerie per inviare loro o un libro su come curarsi la gola, esatto, quando arriva il maltempo, o su magari l'andamento dei mercati finanziari. Che succede in questi giorni, vicinanza? Questo rosso profondo che ieri in particolar modo si è accanito su Wall Street e stamattina in Asia, da cosa è determinato? Ma come sempre, quando dobbiamo spiegare movimenti di breve periodo sui mercati finanziari, dobbiamo far riferimento a componenti fondamentali, componenti tipo più tecnico o anche psicologico. Quindi il punto di partenza era quello che lei citava. Veniamo da 6 mesi molto positivi per le borse mondiali. Per dare un'idea, l'indice mondiale da giugno 2013 all'inizio di questo mese, o meglio a metà di questo mese, quando ha fatto il massimo, è cresciuto dell'ordine del 18%, mm-hmm. senza andare lontano, sono stati mercati come il nostro mercato italiano con performance superiori al 30%. Quindi in un contesto che magari non definiamo di euforia, comunque di ottimismo, appena qualcosa non funziona, il mercato reagisce negativamente, riposizionando aspettative che magari erano molto ottimistiche. Cos'è che non sta funzionando? Non c'è un elemento fondamentale particolarmente grave. Ci sono una serie di elementi che stanno, diciamo, generando questo mal di pancia sui mercati. Che non è un mal di gola, è un mal di pancia. È un mal di pancia questa volta. Diciamo, uno degli elementi fondamentali è determinato dall'inizio della politica di rientro della Fed, politica di rientro da scelte monetarie super espansive. Questo ha un effetto di drenaggio della liquidità di cui avevano beneficiato in particolare i mercati emergenti. Il risultato di flussi in uscita da questi paesi, con sofferenza delle valute dei paesi, dei mercati azionari ed obbligazionari. E questo si è visto nei giorni scorsi con la situazione argentina, che per la verità poi ha anche altre motivazioni, questa sua turbolenza recente, e dalla Turchia. Certo, perché poi di fronte a questo scenario sistemico ci sono fattori specifici che colpiscono singoli paesi emergenti. I più indeboliti da un fenomeno di flussi in uscita sono quei paesi che hanno squilibri delle partite correnti, delle partite commerciali, i famosi 5 deboli. Ci sono paesi che hanno invece delle sfide davanti, sfide di tipo strutturale, devono passare da modelli di crescita non più proponibili ad altre forme di ricette che possono mantenere il profilo di crescita nel lungo periodo senza generare squilibri. Ci sono fattori politici e sociali mm-hmm. che osserviamo in alcuni paesi. 800 20, ecco, vedi che mi strozzavo. 800 24 00 24, numero verde se volete soddisfare qualche curiosità relativamente all'andamento dei mercati finanziari. 349 238 6666 se invece volete continuare a scriverci i vostri messaggi. E dottore Vicinanza, lei ha proposto questo quizzettone ai nostri ascoltatori. Quali domande vorrebbe invece ricevere da un nostro ascoltatore per aiutarlo concretamente? Qua a Cuore Denari amiamo dare anche dei consigli pratici, concreti, se questo è possibile. Ma la domanda che mi piace sentire dagli ascoltatori è il contrario di quella che purtroppo spesso si sente, cioè cosa compro adesso? La domanda corretta per chi affronta il tema del risparmio è: come costruisco un paniere di investimenti avendo delle esigenze di risparmio che vanno al di là dell'immediato futuro? Quindi come si fa una corretta pianificazione finanziaria e non solo. Bisogna anche diversificare. Vedi quante cose vedi sai. Ti lascio sola per un giorno, ma subito apprendi i concetti fondamentali della pianificazione finanziaria. Mi hai messo, devo dire, di fianco degli angeloni custodi. 800 24 00 24. Mi sembra che il nostro esperto, il dottor Vicinanza, abbia solleticato un po' la vostra curiosità. E quindi, se volete approfittare della sua presenza qua a Cuore Denaro, non avete che da chiamare l'800 24 00 24. A proposito della diversificazione, dottor Vicinanza, fatto fermo il punto che ognuno fa quella che è adatta alle sue esigenze, a quelle della sua famiglia, ed è una diversificazione che deve guardare anche quelli che sono i propositi, gli obiettivi della propria vita. Qual è però quella che state facendo voi come SGR in questo momento? Da quali paesi state fuori e in quali invece state incrementando la vostra posizione? Quali sono le aree più promettenti in questo momento a vostro avviso? Ma siamo partiti a inizio anno piuttosto cauti sui mercati azionari, proprio perché ritenevamo che ormai le valutazioni, anche in un contesto che rimane positivo, le valutazioni fossero un po' piene, diciamo così. È chiaro che di fronte a una correzione significativa come quella che abbiamo osservato, tendiamo a guardare con altri occhi i mercati azionari. Magari il momento corretto per entrare non è oggi, non è domani, non è dopodomani, però adesso è un mercato che comunque rispetto ai massimi ha fatto una correzione sugli indici mondiali dell'ordine del 5-6%. Quindi si può rientrare. Quindi insomma si può guardare con un'altra ottica, meno preoccupata rispetto a qualche mese fa, quando le valutazioni sembravano un po' più tirate. E viceversa, all'inizio dell'anno avevamo un atteggiamento non proprio di consenso, ma non particolarmente negativo sulle obbligazioni. C'era un grande consenso, le obbligazioni sarebbero state, per le obbligazioni sarebbe stato un anno perdente, e dalle nostre valutazioni invece questo elemento non emergeva. Alla luce del movimento rialzista che hanno avuto i mercati obbligazionari dei paesi cosiddetti solidi, adesso invece iniziamo ad avere un atteggiamento un po' più prudente. C'era un'osservazione, Nicoletta, se vuoi io ti pregherei di rifarcela, che facevamo poco fa, microfoni spenti, sul nostro paese, sull'immagine che sta dando all'esterno in questi giorni con queste simpatiche bagarre a Montecitorio e non solo. E contestualmente Enrico Letta è in certe economie del Golfo a caccia naturalmente di investitori, e quei signori che sta visitando in questi giorni ne hanno appunto di soldi per chiaramente puntare sulle aziende del nostro paese, soprattutto su quelle che saranno oggetto di operazioni di privatizzazione. Ma cos'è che dicevi prima che è molto interessante? No, non so se era microfoni spenti, adesso mi imbarazzo un po', mi raschio un po' la voce. No, insieme al dottor Vicinanza dicevo, ma insomma, a vedere in Parlamento scene di questo tipo e poi che credibilità possiamo avere come paese? Come se ci facessero vedere un quadretto familiare di un gruppo che litiga, si insulta e poi ti venisse fuori la proposta, vorresti andare in vacanza con loro? Esatto. Beh, forse, dottor Vicinanza. No, perché il rischio geopolitico nelle scelte di investimento, le banche d'affari, le società appunto come la vostra, le SGR, le prendono in considerazione. Qua chiaramente non è che abbiamo, però qua si sta addirittura parlando qualcuno di colpo di Stato, di paroloni grossi vengono usati, sicuramente l'immagine che si dà all'esterno è molto importante, no? Parli liberamente. Ma dunque, rimaniamo alla efficace similitudine della famiglia. È una famiglia che ha bisogno di rimettersi a posto, e quindi non è bello vedere che si litiga invece di affrontare i problemi. Abbiamo parlato di spread. Qualche mese fa il timore era un timore di conti. Diciamo che grazie alle manovre che sono state effettuate, grazie a una serie di altri elementi, adesso non è più quello il tema. Il tema è rimasto uno solo sul tavolo, è quello della crescita. Dobbiamo metterci in testa che con i nostri livelli di rapporto debito-PIL, se l'economia non cresce, ma non è il tema cresce il mese prossimo, dove va il PIL domani, dopodomani, tra una settimana, è la capacità che ha questo paese, che avrà questo paese di crescere sul lungo periodo. Se questa capacità non c'è, il nostro debito rimarrà un fardello insopportabile. Diciamo che le previsioni di autorevoli società di investimento, di grandi osservatori, indicano che le prospettive di crescita del nostro paese sarà sempre poco al di sopra dell'1%, l'1,5%, non è che ci siano delle cifre molto significative sulle quali far affidamento, dottor Vicinanza. Guardi, però l'aritmetica da questo punto di vista dà un responso molto chiaro. Se guardiamo i nostri modelli, se io osservo i nostri modelli interni di valutazione diciamo della sostenibilità del debito, che è il parametro fondamentale, in realtà questo 1,5-1,05 fa la differenza. Se il paese dovesse almeno avere la capacità di crescere all'1,5 nel lungo periodo, il debito italiano in rapporto al PIL inizierebbe a scendere, scenderebbe in maniera anche abbastanza significativa. Se invece le capacità di crescita rimangono allo 0,5, si fa fatica a scendere, il livello debito PIL si stabilizzerebbe intorno a questo valore di 130 e saremmo esposti a qualunque shock che può arrivare da qualunque parte del mondo. 800 24 00 24, sono pronti altri due ascoltatori per chiederci. Mauro da Napoli, piccola consulenza, sì. E poi Pierluigi da Bari. Mauro, buongiorno. Buongiorno a tutti. Volevo fare una domanda al professore. Quali possono essere le opportunità, diciamo, di investimento in un periodo ipotetico di deflazione? Bravo, ha introdotto un tema che avevamo così in mente di trattare, perché questo scenario deflazionistico si materializza sempre di più. Draghi dice non è così, ma in realtà anche stamattina abbiamo il dato sull'inflazione italiana ai minimi dal 2009. Che sta succedendo, Vicinanza? Beh, chiaramente è uno scenario che dobbiamo tenere in conto. Per noi non è lo scenario centrale, cioè non è quello che con alta probabilità succederà, però sicuramente è una delle ipotesi che dobbiamo prendere appunto in considerazione, perché potrebbe manifestarsi questo tipo di evento. È ovviamente legato alla crisi economica dell'area euro, in particolare dell'Italia, carenza di domanda e quindi tendenza dei prezzi a crescere poco, e questa è la disinflazione, o addirittura a decrescere, dovesse manifestarsi veramente un fenomeno di deflazione. Come reagire? Beh, innanzitutto stare alla larga, se dovesse manifestarsi questo quadro, stare alla larga dei titoli a tasso reale, che ovviamente invece beneficiano di rivalutazioni quando c'è inflazione. Privilegiare i titoli a tasso fisso su scadenze lunghe, perché comunque la cedola fissa sarebbe garantita, e a fronte di questa cedola il potere di acquisto di quel flusso crescerebbe. Non è tipicamente uno scenario positivo per i mercati azionari. Infatti, e quindi insomma due indicazioni, due suggerimenti ai nostri ascoltatori di Napoli li abbiamo dati. Scendiamo a Bari, buongiorno Pierluigi. Rapido Pierluigi, perché qua il tempo corre e i temi sono tanti. Pierluigi, buongiorno. Eccoci qua. Sarò brevissimo. Allora, niente, di solito i risparmiatori si consiglia di avere un'ottica di investimento nell'azionario medio-lungo termine, diciamo intorno ai 5 anni di solito il ciclo economico. Però vediamo che almeno in Italia dal 2001, quando c'è stato il massimo, ad oggi, dopo quasi 13 anni, la borsa ha perso circa il 70%. La domanda è: non è che per caso dobbiamo rivedere l'impostazione dell'investimento? Pierluigi, grazie. Ha fatto un'osservazione molto intelligente e molto pertinente. Faccio un altro esempio. Quando le borse hanno toccato i minimi del 2009, nella sostanza i mercati finanziari avevano cancellato tutto il progresso che avevano messo a segno nel 97, hanno cancellato 12 anni di borsa a Vicinanza. Pierluigi ha ragione, dobbiamo rivedere qualche concetto di base. Assolutamente ragione. Diciamo che l'orizzonte dei 5 anni è un orizzonte tipico, ma abbiamo esempi negativi come quello citato, come quello del Giappone, dove la borsa è rimasta a lungo col segno rosso, prendendo orizzonti temporali anche lungo. Però da questo punto di vista torniamo al caso che avevamo sollevato prima, quella diversificazione. Questi esempi sono tipici di singole realtà. Se iniziamo anche nel mondo dell'investimento azionario a diversificare acquistando un indice che insiste su più borse, già questi fenomeni tendono a smussarsi. Certo, grazie Marco Vicinanza. Insomma, di fronte alla borsa qualche volta, cara Nicoletta, dobbiamo turarci il naso e quindi lo dobbiamo soffiare. Esatto, fantastico. Te l'ho dato un assist veramente eccellente. Perché ci sta aspettando ancora la dottoressa Lazzarini, che è in linea con noi. Dottoressa Lazzarini, sono arrivati molti messaggi, alcuni genitori, un papà in modo particolare orgoglioso perché la sua bambina piccola di soli 17 mesi, già da 4-5 mesi sa soffiare il naso perché ha imparato dalla sorella maggiore. Per chi invece ancora non ce la fa, ci suggerisca un giochino. Anche qualche adulto. esatto, ma... un giochino, perché comunque tutti notiamo che per i piccoli è più difficile appunto avvicinarsi alla pratica della pulizia del naso, perché comunque è ostica, poco gradita in generale. Allora, un giochino che consiglio è quello che si chiama la gara delle palline di carta. Sì? Si possono realizzare appunto delle palline di carta e si possono posizionare su un piano, su una tavolina, ci si tappa una narice con un dito e a turno si soffia appunto in direzione delle palline. In questo caso vince chi manda la pallina più lontano, quindi un giochino che si può fare. Vedi, lo faremo anch'io e Deborah adesso chiudendo i microfoni. Ricordo che tutti questi consigli si troveranno in un libro in cui un drago, vero dottoressa Lazzarini, suggerirà ai bambini a come fare a mantenere il naso pulito e soprattutto a respirare bene. Grazie dottoressa Lazzarini. Grazie a voi. Grazie, grazie anche a Marco Vicinanza per essere stato con noi. Aspettiamo presto. Grazie. Buona giornata. Buona giornata a tutti. Anche a lei. Grazie a tutti, a domani.